Pronto Salute. I grandi medici rispondono agli ascoltatori di Radio 1, a cura di Vito Pindozzi. Un cordiale buongiorno da Lucrezia Scardini, seconda giornata dedicata alla sclerosi multipla. Il professor Carlo Pozzilli, responsabile del centro sclerosi multipla dell'ospedale Sant'Andrea, Università degli Studi di Roma La Sapienza, il nostro ospite, risponderà alle vostre domande. Buongiorno professore. Buongiorno. Cominciamo con la signora Gioconda, ci chiama dalla provincia di Catanzaro, ha 44 anni. Signora, buongiorno a lei, prego. Buongiorno, vorrei porre qualche domanda al professore Pozzilli. Vorrei sapere se esiste una familiarità nella malattia e poi, se possibile, volevo chiedergli, quando dall'esame della recentesi risulta una sola banda policlonale, si parla in questo caso di malattia demineralizzante e non di sclerosi multipla. Ci sono attualmente delle terapie per questa fase di malattia e quali sono e se portano, sono casi di guarigione? Allora, grazie signora Gioconda per la domanda, perché mi aiuta a definire che questa malattia non è una malattia familiare. Esiste una predisposizione genetica che è dovuta a molti geni, ciascuno dei quali contribuisce tuttavia molto poco. E questa predisposizione genetica varia da popolazione a popolazione. Uno studio recente condotto, coordinato dalla nostra università, uno studio su tutta la popolazione italiana, nei pazienti gemelli con sclerosi multipla, ha dimostrato che questa predisposizione genetica è molto bassa nella nostra popolazione, per esempio rispetto al Nord Europa. Generalmente si dice che il rischio è maggiore nei gemelli monozigoti, cioè quelli monovulari, ed è del circa del 10-15%, mentre nei fratelli o nei gemelli di zigoti o tra padre e figlio, madre e figlio, questo rischio è bassissimo, è del 2%, quindi molto simile a quello della popolazione generale. Per la seconda domanda, e riguarda il liquor, cioè il numero delle bande, è vero che ci sono dei dati che ci dicono che minore è questo numero di bande oligoclonali nel liquor e minore è il rischio di sviluppare una sclerosi multipla. Certo. Quindi, oltre a essere un esame importante, come dicevo ieri, per la diagnosi, è anche un esame importante per la prognosi. Ecco, professor Pozzilli, sulla scia dell'ereditarietà o familiarità della sclerosi, adesso c'è il signor Alessandro che ha un quesito da porle. Ci chiama da Benevento, ha 37 anni. Buongiorno, prego. Buongiorno, per la trasmissione prima cosa. Volevo dire, se anche se dalla risposta precedente fosse qualcosa vince, certo. Anche la mia domanda potrebbe essere utile. Comunque, un caso in una famiglia in cui madre e figlio hanno lo stesso problema, visto che non è un caso di ereditarietà, quanto mi è parso di capire, è soltanto il buon signore che ha deciso così o non so. Allora sì, guarda che il rischio in questo caso è bassissimo, come dicevo prima. Perché il timore di Alessandro, professore, è che diciamo procreando possa in qualche modo. Ecco. Sì, ma qui parliamo del rischio madre-figlio o padre-figlio. Questo rischio è del 2%, quindi è molto simile a quello, diciamo, che si può trovare nella popolazione generale, quindi è sicuramente lievissimamente aumentato, ma non come nel caso, come dicevo prima, dei gemelli monozigoti, monovulari, dove il rischio è aumentato rispetto alla popolazione generale. Bene, allora a questo punto sentiamo il quesito che le pone la signora Irene, ci chiama dalla provincia di Catania, 32 anni. Buongiorno signora. Buongiorno, io praticamente ho fatto un elettroencefalogramma e mi è risultata una simmetria degli emisferi cerebrali e di conseguenza anche una simmetria dei riflessi osteotendinei. Volevo sapere se ciò poteva essere predittivo di una sclerosi multipla. Ecco, no, signora Irene, questo esame, l'elettroencefalogramma, è un esame importante in neurologia, ma non in maniera specifica per questa malattia. Si utilizza molto soprattutto nelle diagnosi di epilessia. Devo dire che per fare questa diagnosi di sclerosi multipla sono gli altri esami, come la risonanza magnetica e la puntura lombare. Quindi no, la mia risposta è negativa da questo punto di vista. Ecco, a proposito di diagnostica, professor Pozzilli, Alberto da Ascoli Piceno, 44 anni. Le chiede se ci sono rischi di eventuale tossicità nell'utilizzo dei mezzi di contrasto per la risonanza magnetica cerebrale ed eventualmente se ci sono, quali sono? Allora sì Alberto, là il rischio una volta dei mezzi di contrasto, soprattutto quando si usavano quelli iodati e con l'attack cerebrale, era abbastanza elevato. Adesso con la risonanza e il gadolinio, questo è il mezzo di contrasto che noi utilizziamo, questo rischio è veramente bassissimo. Tutt'al più sono stati descritti dei casi sporadici di allergie, soprattutto cutanee. Però generalmente ormai sono tanti anni che utilizziamo la risonanza magnetica col gadolino e non abbiamo visto nessuna complicazione importante. Allora è la volta del signor Stefano, ci chiama da Viterbo, 35 anni. Buongiorno a lei. Buongiorno. Senta, volevo chiedere al professore, nel momento in cui viene diagnosticata la sclerosi multipla, a che distanza di tempo bisogna cominciare la cura con l'interferone? Allora sì, Stefano, questo è un argomento importante perché proprio recentemente ci sono stati alcuni studi multicentrici che hanno dimostrato quanto sia importante iniziare la terapia nel modo più precoce, cioè anche dopo il primo episodio si è visto che iniziando l'interferone c'è un ritardo nella comparsa di un eventuale secondo episodio. Quindi tutti gli studi, sia studi clinici ma anche studi con risonanza magnetica e biologici, hanno dimostrato l'importanza di un inizio di terapia precoce. Tanto prima la iniziamo, tanto maggiore è l'effetto preventivo, perché ricordo l'interferone è un farmaco che previene, non è un farmaco curativo, ma è un farmaco che previene l'insorgenza di nuovi episodi nelle forme remittenti. Ecco, adesso la signora Anna Maria, che è sotto interferone da diverso tempo, ci chiama dalla provincia di Milano, ha 57 anni. Buongiorno a lei. Buongiorno, buongiorno professore. Buongiorno. Ho 57 anni, da 4 anni e mezzo soffro di sclerosi multipla all'occhio destro. Sono in cura con interferone beta, un'iniezione ogni 8 giorni e finora non ho avuto più ricadute e ho riacquistato la vista completamente dall'occhio colpito. Ora però l'interferone, come mi succedeva all'inizio e poi più, quando faccio la puntura, un'iniezione, dopo 4-5 ore sento una febbricola, dolori muscolari, dolori scheletrici, cose che non sentivo più fino adesso, facendo sempre l'iniezione. Adesso io le chiedo, visto che non ho avuto in questi 4 anni e mezzo più nessuna ricaduta e le risonanze magnetiche che faccio ogni anno l'hanno confermato, volevo chiedere se è possibile sospendere gradatamente la cura con l'interferone, con la speranza di non avere più ricadute, visto che purtroppo è un tipo di malattia non terribile. Sentiamo il professor Pozzilli. Allora, può succedere, come è successo alla signora Anna Maria, che l'interferone ridia problemi dopo qualche tempo, perché è interessante notare che Anna Maria all'inizio aveva questi effetti collaterali tipo febbre, che si combattono con dei farmaci, la famosa tachipirina, insomma farmaci analgesici e antinfiammatori che aiutano proprio per combattere questi sintomi tipici dell'interferone. Può succedere che a volte si ripresentano così come si erano presentati all'inizio, però generalmente in questi casi va riniziata una terapia protettiva per evitare la comparsa di questi sintomi, soprattutto con gli antinfiammatori. Per quanto riguarda il discorso di sospendere la terapia con l'interferone, ne avevamo parlato ieri, sì. In realtà dipende da caso a caso ed è il neurologo che ha in cura la signora che eventualmente deve rivalutare di decidere della sospensione. Certo. È chiaro che qui si tratta di una terapia che nel caso della signora sembra in realtà proteggerla veramente, quindi la decisione deve essere molto accurata. Allora professore, abbiamo Claudio, ci chiama dalla provincia di Rieti, il problema riguarda il fratello che ha 45 anni. Buongiorno signor Claudio. Buongiorno professore. Buongiorno. Ho piacere di parlare con lei, qualche volta l'ho contattata via email anche il suo collega il professor Salvetti. Io telefono al mio fratello di 45 anni, attualmente deambula male, ha disturbi oculari e vescicali e nevralgia del trigemino con dolore agli arti inferiori. L'ultima risonanza magnetica fatta a settembre scorso dice che la malattia è ferma, si cura attualmente con azatioprina 50, una la mattina e una la sera. Vorrei sapere se le cellule staminali potranno curare questa malattia e quando è prevista la loro applicazione clinica. Ringrazio. Allora, Claudio, Per quanto riguarda la terapia attuale, l'azatioprina è un'alternativa terapeutica, oltre abbiamo nominato tra ieri e oggi l'interferone, il copolimero, esiste anche questa compressa, sono scompresse che hanno un effetto soprattutto immunosoppressivo. E il loro effetto è stato dimostrato da studi soprattutto non recentissimi, comunque si è visto che può aiutare nella prevenzione delle ricadute, infatti mi pare che Claudio non da questo punto di vista non abbia più avuto ricadute, no. E la malattia si è fermata per quanto riguarda la risonanza. Le speranze delle staminali, le staminali sicuramente costituiscono un argomento di speranza, anche se i dati più recenti ci dicono che ancora i tempi di attesa sono lunghi, soprattutto in un'applicazione clinica nei pazienti con sclerosi multipla, quindi sicuramente non è una terapia che è dietro l'angolo, ma ci aspettiamo che nel giro di qualche anno possa veramente costituire qualcosa di reale. La signora Claudia da Pordenone, 62 anni, buongiorno Claudia. Buongiorno professore, buongiorno. Senta, io sono una signora affetta da sclerosi multipla primaria progressiva, sì. Trovo fatica a camminare con la gamba destra e vorrei sapere se potrei trarre vantaggio da un intervento neurochirurgo, perché sono affetta di ernia discale tra la C5 e C6, ernia discale calcificata, in più ho il midollo sottile dalla parte destra C3-C5. Allora, signora Claudia, molte persone con sclerosi multipla hanno associate l'ernia e allora uno pensa sempre se togliere l'ernia è qualcosa che possa essere utile. Generalmente è utile sul sintomo dolore, quindi se quest'ernia è la causa del dolore, sicuramente rimuovendo l'ernia il dolore passa. Per quanto riguarda invece il discorso della disabilità, il problema è che questa ernia già da molti anni è lì e l'inizio della malattia è stato fatto proprio al momento, la diagnosi è stata al momento già che c'era questa ernia, quindi probabilmente non c'è da aspettarsi un beneficio dall'intervento chirurgico se non sintomatico sulla componente del dolore. Professor Pozzilli, la signora Paola, dalla provincia di Ascoli Piceno, 57 anni, ci ha chiamato e ci chiede di porle questo quesito. Quali sono le ultime novità terapeutiche nella cura della sclerosi multipla e se ci sono novità magari di importazione? Ecco, sì, è importante perché proprio quest'anno dovremmo avere sul mercato un nuovo farmaco, che si chiama, la sostanza si chiama natalizumab e verrà commercializzato probabilmente col nome di Tisabri, che è un anticorpo monoclonale e quindi ha un meccanismo d'azione diverso rispetto a quelli dei farmaci attualmente in commercio, tipo per esempio l'interferone o il copolimero, ha un meccanismo più specifico e si è visto che l'effetto preventivo di questo farmaco è maggiore rispetto a quello dell'interferone e del copolimero, quindi è sicuramente una speranza grossa che abbiamo al momento, dovrebbe entrare nel commercio in Europa entro la fine dell'anno e costituire quindi un nuovo passo avanti della ricerca nell'ambito della sclerosi multipla. Professore, 30 secondi per rispondere ad Antonio da Catania, 52 anni, le chiede se alcune specie di virus come l'HIV o l'herpes possono causare l'insorgenza della sclerosi o favorirne la degenerazione. Allora sì, e ci sono degli studi recenti che hanno trovato un'associazione ma non un rapporto di causalità, cioè si è visto che persone che avevano avuto infezioni con herpes e anche per esempio erano state affette da mononucleosi infettiva, Epstein-Barr, soprattutto se queste malattie non si sono sviluppate durante l'infanzia ma durante l'età adulta, c'è un'associazione maggiore tra queste patologie e la sclerosi multipla. Chiarissimo. Grazie al professor Carlo Pozzilli, responsabile del Centro Sclerosi Multipla dell'Ospedale Sant'Andrea, Università degli Studi di Roma, La Sapienza. Tra poco il giornale radio. Un grazie a Fabrizio Rocchi per l'assistenza tecnica. Radio Pronto Salute torna alle 11.45 il lunedì. Parleremo di cure per le malattie del fegato. Da Lucrezia Scardini, grazie per l'ascolto. Ci risentiamo lunedì.